sto baccano, che succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Buona giornata a tutti da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono i titoli in evidenza sui giornali di questa mattina. Naturalmente la vicenda di Gaza domina su molte delle prime pagine. Cominciamo come d'abitudine dal Sole 24 Ore. Sole 24 Ore riporta la strage nella scuola sul titolo di spalla, cioè lateralmente in alto nella prima pagina. Gaza, strage a scuola e la svolta degli USA che chiedono il cessate il fuoco subito. Anche una corrispondenza di Ugo Tramballi che abbiamo sentito poco fa, appunto in collegamento con il giornale radio, intitolato Un inferno senza vie di fuga. Il titolo principale del Sole 24 Ore è dedicato alla vicenda del gas, vicenda che ci preoccupa anche viste le condizioni meteorologiche che decisamente non fanno sperare in un miglioramento, in un inverno mite come è stato in altri anni. Mosca blocca il gas è il titolo principale del Sole 24 Ore di oggi e l'Italia perde il 30% dell'import. Scorte per circa un mese, Scaiola rassicura. Il petrolio in rialzo tocca i $50 al barile. Un commento di Davide Tabarelli segnala quella che è una dipendenza dimenticata. E poi ancora dal Sole 24 Ore, il maltempo, tutto il nord sotto la neve, disagi per strade e voli, e il fisco, gli studi di settore sono, come sapete, quel meccanismo di accertamento, di verifica dei redditi applicato a diversi milioni di professionisti, lavoratori autonomi e piccole imprese, saranno flessibili per tenere conto della crisi, cioè gli indicatori quest'anno terranno conto anche dei cali dei prezzi, degli orari di lavorazione che sono stati magari ridotti. Questo sul Sole 24 Ore, che oggi tra l'altro si presenta anche con una nuova iniziativa in vendita con il quotidiano. Ci sono le ricette dei grandi chef, la prima puntata, la prima uscita è dedicata a Aimo e Nadia. Vediamo dagli altri giornali, cominciamo dal Messaggero. Il Messaggero dedica la sua apertura, il suo titolo più importante, alla vicenda di Gaza. Gaza, la strage dei bambini. Obama preoccupato, temo per i civili, e Sarkozy che parla di tregua possibile. Il Messaggero poi dà molto spazio a un'intervista che ha realizzato al Presidente del Senato, Renato Schifani. Schifani chiede un tavolo comune in Parlamento su giustizia, federalismo, crisi e infrastrutture. Nell'intervista Schifani dice non ci sono più alibi, è in gioco la credibilità della politica su appunto questi temi, la giustizia, il federalismo, le infrastrutture. C'è una segnalazione interessante, sempre dalla prima pagina del Messaggero quotidiano romano, sulla vicenda che vede opposti nella maggioranza la Lega e il Presidente del Consiglio, diciamo la posizione di difesa di Malpensa e quella invece in difesa di Fiumicino. All'Italia un patto con gli amministratori del nord è la proposta del governatore della Regione Lazio Marrazzo, che scrive a Formigoni e Moratti: Fiumicino non si tocca ma si può difendere Milano. Quindi una mano tesa da parte del governatore per cercare di comporre questa vicenda, che poi troveremo anche su altri giornali oggi in evidenza nella prima pagina. Repubblica dedica naturalmente il suo titolo più importante a Gaza. Gaza, strage nella scuola, e il titolo immediatamente successivo per ordine di importanza sul quotidiano è con lo scontro Mosca-Kiev che lascia l'Europa senza gas. C'è anche una intervista a Bini Smaghi che chiede un patto anticrisi con meno pensioni e più sussidi per sostenere l'economia. Inoltre su Repubblica una segnalazione dedicata alla vicenda delle parti, diciamo, elogiative per Riina, delle parti quasi verrebbe da dire favorevoli ai mafiosi e alla mafia, che sono su Facebook. Facebook, sapete, questo network sociale, questo social network nel quale ognuno può mettere le sue opinioni, creare dei gruppi di interesse, dei gruppi di opinione. Ecco, ci sono anche dei gruppi di opinione, per quanto incredibile possa sembrare, favorevoli a Totò Riina. E Riina su Facebook indaga il PM Il sospetto del procuratore è: non mi stupirei se fosse un'operazione mediatica della mafia. La vicenda di Facebook, tra l'altro, si collega anche a un'altra vicenda, sempre di Facebook, più torinese, che ci viene segnalata dalla prima pagina della Stampa. Infatti sulla Stampa si segnala nella parte bassa della prima pagina questa inchiesta: se il malato finisce su Facebook, che cosa è successo? È successo che tra i vari gruppi che si creano appunto su Facebook, che ha milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, ebbene, oltre a quelli che vedevamo su Repubblica inneggianti alla mafia, ci sono anche dei gruppi formati dagli infermieri degli ospedali, e fin qui non ci sarebbe nulla di male. Il problema è che invece è scattata un'inchiesta perché questi infermieri hanno messo sul web alcune foto di pazienti che vengono di fatto messi alla berlina, quindi c'è una commissione disciplinare e ci sono stati degli interventi abbastanza duri da parte delle autorità ospedaliere, oltre naturalmente a un intervento del garante della privacy. Proseguiamo nell'esame delle prime pagine. Il Secolo XIX di Genova, titolo importante sempre per la scuola di Gaza, colpita scuola ONU, gli USA chiedono una tregua subito, 30 morti tra i profughi, la replica di Israele, da lì sparavano. Il secondo titolo, come abbiamo visto anche su altri quotidiani, il problema del gas: l'Ucraina chiude il gas e Scajola però rassicura, riserve ok. L'ENI avvisa il Secolo XIX, segnala che le forniture per l'Italia si sono ridotte al 10%. Secondo l'Unione Europea la situazione è inaccettabile, la trattativa tra Mosca e Kiev riprenderà domani. Il Corriere della Sera che decide di puntare sempre sulla scuola di Gaza, dando grande risalto alla reazione degli Stati Uniti, il presidente eletto Barack Obama, vittime civili, Obama preoccupato. Il presidente eletto cita Gaza, il sud dello Stato ebraico, Olmert annuncia l'apertura del corridoio umanitario e ci sono le minacce di Al-Qaeda, e tutto questo nel primo titolo, nel titolo più importante del Corriere della Sera. Nella parte centrale della prima pagina del Corriere della Sera una intervista a Nicola Mancino, che è vicepresidente del CSM, l'organo di autogoverno dei giudici. Dice: troppi giudici nel CSM, va ridotto il peso delle correnti. Spazio sul Corriere della Sera, una vicenda che troviamo anche sul Sole 24 Ore: il suicidio del miliardario tedesco Adolf Merkel. Era il re dei farmaci, era tra i 100 uomini più ricchi del mondo, ma è stato, come leggiamo dai giornali di oggi appunto, travolto dalla crisi finanziaria. Infine, come ultima segnalazione delle prime pagine, prima di fermarci un istante per il giornale radio, l'Avvenire: bombe e razzi, Gaza nel caos è il primo titolo, e il gas, il duello tra Russia e Ucraina che mette l'Europa a rischio di buco energetico, il titolo di taglio nel giornale Avvenire appunto. E ora ci fermiamo un istante per il giornale radio. La stampa belletta, la stampa. Bentornati alla nostra lettura mattutina dei giornali in edicola. Non avevamo visto la prima pagina di Libero, che non tiene come titolo più importante quello della scuola, della strage nella scuola nella striscia di Gaza, ma invece la vicenda dello scontro relativamente a Malpensa, scontro interno appunto alla maggioranza. Il titolo di Libero: caro Bossi, ora piantala, tra virgolette, perché parla Berlusconi. Il premier non digerisce gli ultimatum della Lega su Malpensa, le sorti dell'aeroporto, apprendiamo appunto la prima pagina di Libero, stanno a cuore a loro quanto a me, se non di più. Oggi il chiarimento col Senatur. Tra gli altri titoli in evidenza, il gas, nello stile un po' di Libero, stile sempre polemico, graffiante di Libero, la vicenda della riduzione delle forniture di gas. gas viene illustrata con una foto che ritrae appunto il Presidente del Consiglio Berlusconi e Vladimir Putin. Putin fa il tenerone con Silvio, poi frega l'Italia, l'amico del piffero, cioè l'amico insomma di un amico falso in qualche modo, ci condanna al gelo, ed è l'articolo affidato proprio a Vittorio Feltri. La vicenda di Malpensa e dello scontro interno alla maggioranza trova naturalmente spazio anche sulla Padania, la voce del Nord, che è diretta da Umberto Bossi, annuncia come titolo più importante il vertice appunto tra Bossi e Berlusconi previsto per oggi, il Senatura alla guida del rilancio del lab dell'aeroporto. Oggi la Padania detta le regole, in gioco c'è il destino del territorio che da sempre traina tutto il paese. Quindi la Padania diciamo ribadisce la posizione assolutamente dura della Lega sulla vicenda di Malpensa, sul destino di Malpensa. Non sembra disposto Bossi, da quello che si vede appunto dal giornale da lui diretto, ad accettare diminuzioni di sorta nel ruolo del lab lombardo. Torniamo sul Sole 24 Ore, diamo un'occhiata anche ad altri temi che trovate oggi sul nostro giornale. Un reportage molto interessante affidato a Luca Vinciguerra, Cina, la crisi arriva nella città fabbrica. Di che si tratta? Si tratta di questo insediamento industriale più grande del mondo, si trova a Shenzhen, dove Foxconn produce componenti per Sony, Samsung, Dell, Nokia, Apple, e qui il calo degli ordini ha spinto colui che è il fondatore e padre padrone dell'azienda, di questa mega azienda, di questa mega fabbrica, Thierry Gu, a licenziare 40.000 su 270.000 operai. La storia di questa mega fabbrica che subisce la morsa della crisi internazionale, pur in un paese come la Cina che finora ha continuato nella sua crescita, anche se con ritmi più rallentati, viene raccontata appunto da Luca Vinciguerra. La fabbrica, segnala Vinciguerra, è gigantesca, il periplo completo dell'area su cui sorge la Foxconn è lungo oltre 12 chilometri. All'interno dell'impianto lavorano, o meglio, lavoravano fino a un paio di mesi prima che scoppiasse la grande crisi, 270.000 persone. Oggi sulla faccia del pianeta non c'è un insediamento industriale più grande di questo. Il fondatore appuntato ci avverte una scheda che illustra l'articolo di Vinciguerra sull'elettronica già dagli anni 70. L'elettronica rappresenta circa un terzo delle vendite del Made in China all'estero. Un'altra inchiesta che trovate sul Sole 24 Ore di oggi è dedicata alle lotterie. Naturalmente ieri è stato il tradizionale giorno della fortuna, il giorno dell'assegnazione dei premi della Lotteria Italia. C'è stato anche questo boom di biglietti venduti dopo anni di crescita più contenuta appunto nella vendita dei tagliandi. La crescita invece per quest'anno è stata più consistente, superiore al 10%, del 13% appunto, leggiamo sul Sole 24 Ore. Tra l'altro nel 2009 non ci saranno quattro lotterie, sempre vediamo da questo servizio di Cristina Casadei, ma ci saranno tre sole lotterie di tipo nazionale, quindi quella abbinata al Giro d'Italia, legata al Festival di Sanremo, e poi naturalmente la tradizionale Lotteria Italia che si concluderà nell'Epifania del prossimo anno. Il servizio più importante però di questa pagina intitolata alle lotterie è sul business del gioco e del lotto e delle lotterie, da un lavoro di Carmine Fotina. Lotteria Italia, leader UE, leader dell'Europa, con un quarto del mercato, e c'è appunto questo duello tra l'automatica e i greci di Intralot. Il business vale 17 miliardi, i gestori operanti in Italia guardano ora ai paesi emergenti. Apprendiamo dai dati complessivi sul mercato delle lotterie in Europa vale 76 miliardi di euro, siamo stabilmente direi al primo posto con 16,8 miliardi, quindi quasi 17, seguiti a una notevole distanza dalla Spagna con 12,3 miliardi, e poi più indietro i francesi con 9,3 miliardi. Questo il lavoro di Fotina. Ci segnala tra l'altro che le nuove frontiere su cui si pensa di andare a investire per questo business sono Turchia, Sud America e Asia. Si stanno muovendo in questo momento anche la Spagna e la Francia, verrebbe da dire, per appunto recuperare quello che al momento sembra essere un primato italiano sia nel gradimento della popolazione sia anche nell'operatività dei soggetti. Passiamo dal Sole 24 Ore a tutt'altro argomento, invece vediamo dalla Stampa, torniamo su questa vicenda di cui vi raccontavo relativa a Facebook. Tra l'altro, come sapete, nelle scorse settimane proprio il Sole 24 Ore ha dedicato un volume che è ancora disponibile in edicola su Facebook, su questo fenomeno di Facebook che ha avuto uno sviluppo impressionante nella seconda parte dell'anno appena concluso, del 2008, e sono milioni e milioni gli utenti in tutto il mondo e, come vediamo, gli usi sono i più vari. Mettevamo già a confronto nella prima parte queste due segnalazioni che troviamo su Repubblica e sulla Stampa, i siti, meglio i gruppi che sono favorevoli, inneggianti in qualche modo a Totò Riina, e invece la vicenda dell'ospedale di Torino delle Molinette, in cui alcuni pazienti si sono trovati fotografati e poi diffusi su Facebook, appunto, all'interno dei gruppi creati dai dipendenti dell'ospedale. Allora partiamo dalla vicenda della mafia, dei gruppi che sono favorevoli alla mafia in qualche modo. L'allarme viene da Grasso, il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, che dice: ci sono migliaia, Riina su Facebook, l'ombra della mafia, migliaia di fan per i boss. A questo punto interviene la procura, avvengono riportate anche alcune frasi decisamente sconcertanti, inneggianti appunto a Totò Riina, tra cui gli auguri di buon anno e l'onore a Totò Riina, omaggi a Cutolo e anche al codice dell'omertà. Quindi tutto questo lo trovate su Repubblica. La preoccupazione ovviamente del procuratore antimafia è partita anche, va detto, dalla stessa mobilitazione degli utenti di Facebook, del social network, che hanno chiesto un intervento della magistratura contro questo tipo di fenomeni, questo tipo di gruppi che decisamente forse hanno il gusto della provocazione o forse non hanno ben chiaro di che cosa si stanno occupando. Segnala la Repubblica che ci sarebbero 2228 iscritti a questo Riina Fans Club. Sulla stessa pagina viene ospitata anche una polemica innescata da alcune dichiarazioni del calciatore Fabio Cannavaro, calciatore difensore della nazionale, attualmente impegnato, come sapete, in Spagna. Cannavaro, napoletano, si è espresso con qualche riserva su Gomorra, il libro di Saviano e il film che ne è derivato. Gomorra ci danneggia la nostra immagine, danneggia l'immagine dell'Italia, questa è la tesi di Cannavaro. Sul web si sono creati, appunto, il collegamento fatto da Repubblica, anche dei gruppi che sono contro Saviano e contro le indicazioni che ha dato Saviano nel suo libro, che poi è stato tradotto in un film. Allora vediamo l'altra parte di Facebook a Torino, la vicenda torinese delle medici di Facebook, pazienti messi alla berlina su internet. Ci annuncia Marco Accossato che ci sarà pugno duro contro gli infermieri che l'ospedale Molinette hanno messo online foto di pazienti in pronto soccorso con tanto di commento aggiunto sulla pancia di un uomo ubriaco, appunto si leggeva "sono ciucco perso" e altri motti di spirito decisamente fuori luogo. Il primario delle Molinette dice: è intollerabile che i dipendenti mostrino gli agenti sulle barelle o durante le visite. Il gruppo che era attivo in questo social network è stato chiuso e le foto in questo momento non sono più disponibili. C'è l'intervento abbastanza duro, comprensibilmente duro, del garante per la privacy, che si è detto indignato per le immagini comparse su Facebook e annuncia alla stampa l'invio degli ispettori. Dice: le regole del mondo virtuale, ricorda Pizzetti, Francesco Pizzetti, sono le stesse che operano nella realtà di tutti i giorni, quindi non è possibile chiaramente dileggiare, mettere alla berlina dei comportamenti di sofferenza. Però segnala anche lo stesso garante in questa intervista: non bastano norme nazionali per la tutela della privacy, della dignità umana in qualche modo di tutti, anche sulla parte virtuale, ci vuole un accordo di tipo mondiale. Allora chiudiamo però con una nota più positiva che viene sempre dal mondo del digitale. Ormai il mondo del digitale occupa grande parte della nostra vita, dalla posta elettronica ai siti a tutto quanto è più o meno collegato all'utilizzo di internet e dei computer. Apprendiamo ancora dalla stampa, la stampa ci ricorda che da aprile Apple toglierà il lucchetto alle canzoni, metterà in vendita 10 milioni di brani copiabili. Era assente Steve Jobs, si parlava proprio ieri sui giornali del suo stato di salute, su cui lui è stato molto rassicurante, lo stesso Jobs. L'annuncio è stato dato da Schiller, però l'annuncio, vediamo più in dettaglio l'annuncio. Apple ha annunciato, ci segnala Bruno Ruffilli da San Francisco, che entro la primavera i 10 milioni di brani di iTunes Store saranno tutti in vendita senza DRM, quindi saranno di fatto compatibili con ogni lettore musicale, masterizzabili su compact disc senza limiti e copiabili da un computer all'altro. Finora solo EMI, ricorda Bruno Ruffilli sulla stampa, aveva rinunciato ai lucchetti digitali. Adesso anche le altre case discografiche hanno trovato un accordo con Cupertino. I brani avranno così tre fasce di prezzo: si partirà dai 69 centesimi, stiamo parlando in dollari, oltre i consueti 99, ma anche 1,29 euro in questo caso. Saranno acquistabili direttamente dall'iPhone utilizzando la rete telefonica. Come si diceva già nel titolo, l'annuncio è venuto da Phil Schiller e non da Steve Jobs, perché al Macworld, alla fiera che si sta svolgendo in questo momento in America, non è presente Jobs per via appunto delle sue condizioni di salute ancora non perfette. Passiamo a tutt'altro argomento, apriamo per meglio dire tutt'altro argomento in attesa di fermarci qualche istante per le indispensabili informazioni sul traffico: la vicenda dei musulmani che hanno pregato in modo un po' invadente, verrebbe da dire, se non addirittura violento, sul sagrato di Piazza del Duomo e di San Petronio a Bologna. Ci informa Repubblica che ci sarà un'inchiesta a Milano per la preghiera islamica, Bologna invece ha archiviato il caso. Le parole dell'arcivescovo di Milano Tettamanzi: per me gli immigrati sono tutti figli. Però la Digos, segnala Repubblica, ipotizza i reati di resistenza e corteo non autorizzato. E ora ci fermiamo qualche istante per le informazioni sul traffico. È la stampa Belletta, la stampa. Bentornati, stavamo vedendo appunto queste reazioni anche di tipo giudiziario alle vicende che hanno caratterizzato i giorni successivi all'invasione israeliana nella striscia di Gaza, con queste reazioni in Italia e questa preghiera dal valore simbolico molto forte che si è vista a Milano e a Bologna davanti alle cattedrali, appunto al Duomo di Milano e a San Petronio. Ora ci informa Repubblica oggi che a Milano ci sarà un'inchiesta contro ignoti, scrive Sandro De Riccardis, per resistenza pubblico ufficiale e il pezzo di corteo non autorizzato a Milano, perché a Milano per questo momento di preghiera collettiva sul sagrato gli islamici hanno forzato il cordone di polizia a San Babila per raggiungere Piazza Duomo. Ci sarà invece l'archiviazione del caso a Bologna, dove la procura non ha ravvisato estremi di reato per la manifestazione che si è svolta anche a Bologna per l'attacco contro l'attacco israeliano a Gaza e la successiva preghiera davanti alla Basilica di San Petronio. La vicenda della preghiera sul sagrato naturalmente continua a tenere banco anche per motivi politici, non sorprendentemente trova molto spazio sulle le pagine interne, le pagine 2 e 3 della Padania. Sulla preghiera contestata c'è il marchio del fondamentalismo, avverte Roberto Fiorentini sulla Padania, e poi un polemico invito rivolto a Tettamanzi e più in generale a tutta la Chiesa: Eminenza non ha niente da obiettare, sembra che vi siano due chiese in Italia, una che tace e un'altra che trema, consapevole della sfida che l'Islam pilota da tempo. Ci sarebbero però anche delle divisioni all'interno degli stessi musulmani sulla liceità e l'opportunità di questo gesto che abbiamo visto. Sempre di religione, di questioni di contrasti religiosi, parliamo riprendendo una inchiesta di Avvenire, da Avvenire oggi in edicola, che ci segnala una cosa assolutamente preoccupante: ci sono stati attacchi alle sinagoghe in Francia e a Bruxelles. Secondo il quotidiano vicino alla conferenza episcopale, si segnala che già sono 24 gli assalti in Gran Bretagna, ci sono stati episodi a sfondo antisemita aumentati considerevolmente in Gran Bretagna da quando sono esplose le ostilità a Gaza. Lo segnala il Community Security Trust, che si occupa della sicurezza della comunità ebraica, che ha registrato 24 cosiddetti incidenti dal 29 di dicembre, 19 dei quali a Londra. Il più serio di questi incidenti, di questi atti vandalici o comunque offensivi, è stato un tentativo di incendio a una sinagoga nel nord-ovest di Londra, che è capitato appunto domenica notte. Sarkozy è intervenuto sulla questione: non permetteremo che le tensioni all'estero si traducano in violenze, quindi se in Italia c'è questo problema tutto sommato più di dimostrazioni di forza in qualche modo sui sagrati delle cattedrali, in Francia e in Inghilterra ci sono segnali decisamente più preoccupanti di una sorta di ripresa dell'antisemitismo, questa volta alimentato dalla questione della guerra a Gaza. Restiamo su Avvenire, perché Avvenire ci segnala un tema che interessa molti di noi, la cosiddetta social card. Come sapete è questa sorta di carta acquisti che viene ricaricata con degli importi fissi mensili, destinata alle persone meno abbienti. Segnala Avvenire che social card, il problema è sapere che c'è. Progetto Caritas e CISL per spiegare nelle parrocchie e nelle comunità come si accede a questo bonus, cioè come si fa a ottenere questa card. Perché? Perché pare che appunto nel suo avvio, che è avvenuto nelle ultime settimane del 2008, si siano persi diversi possibili utenti di questa social card proprio per una difficoltà a raggiungere le persone che ne hanno diritto, persone che chiaramente hanno problemi economici molto gravi e più difficilmente hanno accesso alle informazioni. Quindi si segnala che su 1.300.000 persone stimate come potenziali utilizzatori della social card ci sono state 600.000 domande presentate, riassume Avvenire, e sono state però accolte 330.000, quindi già si è dimezzato rispetto alla platea potenziale il numero dei richiedenti effettivi. Questi richiedenti effettivi si sono ulteriormente dimezzati poi quando si è andati a verificare i requisiti. Secondo una lettera che viene riportata con grande evidenza sempre su Avvenire, una lettera di un lettore, si segnala che non tutto poi è così semplice nell'utilizzo presso i panifici sotto casa o nei mercati rionali. Quindi il problema, diciamo, di non solo di ottenere, di accedere alla social card, di informarsi sulla sua esistenza, ma anche poi quello di poterla utilizzare. Gli accordi che devono intervenire, che stanno via via intervenendo con i soggetti della grande distribuzione, non sarebbero, a quanto segnala questo lettore, ancora sufficienti. Sulla social card, come sapete, sul Sole 24 Ore sono stati fatti parecchi approfondimenti, molta di questa parte la trovate ancora a disposizione sul nostro sito www.ilsole24ore.com. Un altro tema di interesse generale, lo prendiamo questa volta proprio dal Sole 24 Ore. Si tratta di una serie di articoli che cominciano oggi sui tempi del cittadino, cioè quanto tempo ha il cittadino non solo per per quanto tempo deve conservare le sue bollette, le sue ricevute per evitare problemi. Questo è un servizio che avete visto sul Sole 24 Ore domenica scorsa, ma anche per opporsi ad eventuali atti che non condivide da parte di soggetti pubblici o privati. Oggi è il turno del Pubblico, il lavoro presentato da Guglielmo Saporito e poi disponibile naturalmente sul nostro sito internet prende in esame quali sono i tempi appunto per opporsi a provvedimenti della pubblica amministrazione e gli uffici pubblici che dobbiamo contrastare. La difficoltà per questo tipo di azioni è che i tempi sono sempre diversi, cioè si passa dai pochissimi giorni ai 60 giorni, addirittura a scadenze di anni, cioè è possibile ancora opporsi dopo anni alle vicende che ci hanno, agli atti che ci hanno danneggiato da parte di una pubblica amministrazione. Non abbiamo dato spazio oggi alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, rimediamo in questo finale della nostra puntata. Il titolo più importante è dedicato a una vicenda di mercato, di calciomercato, Inter e Cassano, che tentazione. Clamorosa trattativa, dice la Gazzetta dello Sport, con la società nerazzurra protagonista. A questo trasferimento si lavora già per gennaio, alla Sampdoria piace Balotelli e ora si aspetta l'ok di Mourinho, mentre per Milito i tempi si allungano. Nei richiami, nella parte alta della Gazzetta dello Sport, le due amichevoli che hanno visto impegnate il Milan e la Juventus ieri. Il Milan ha vinto a Dubai, la prestazione di Beckham, che ha giocato per un tempo, viene definita altruista, lo applaude anche Digno, cioè Ronaldinho. Ai rigori, ricordiamo, il Milan si è imposto sull'Amburgo. Non è andata invece bene sempre ai rigori alla Juventus, che ha perso con il Monaco. Juve KO a Messina. Per Buffon un buon test, ma avverte il portiere della nazionale, il rientro avverrà solo se mi sento al top. E poi un'intervista a Piepoli, al ciclista, che dice significativamente: mi faccio schifo perché mi sono dopato, ho ammazzato una parte di me. Bene, con questa segnalazione della Gazzetta dello Sport e le questioni sportive, io vi ringrazio dell'ascolto, ringrazio anche Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia e vi do appuntamento a domani con la nostra rassegna stampa.